ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State bene attenti a quello che adesso vi dico. Corsi fuori, così com'ero, davanti al nostro albergo e nella notte davanti al mio ex albergo, perché non volevo più stare al mondo, e presi un taxi. Il tassista mi domandò dove volevo andare, io dissi che mi portasse al bosco, che volevo respirare aria fresca, e così andammo. Tutto mi si spennellava dietro la schiena, dapprima le luci, un mare di luci, poi qua là un lampione, e poi più nulla. Solo indietro, in curva, la macchina del tassista mi proiettava Praga alla rovescia, e poi fermò accanto a un vero bosco. E io pagai. E lui guardava con la mia decorazione con la fascia azzurra e disse che non si meravigliava che io fossi così agitato, lui conosceva queste cose. Tanti camerieri si facevano portare allo Stromokova o altrove per camminare un po'. E io scoppiai a ridere e gli dissi che non andavo a passeggiare, ma che probabilmente mi sarei impiccato. Ma il tassista non mi credette. Sul serio, rispose, con che? E io... davvero non avevo con che farlo, con il fazzoletto, dissi, e il tassista scese dalla macchina e aprì il bagagliaio e cercò dentro e poi alla luce di una piccola torcia mi dette una corda, una specie di sottopancia, e rideva e fece l'occhiolino e agitava la corda nel cappio e ridendo mi consigliò come dovevo impiccarmi nel modo giusto e poi ancora abbassò il finestrino e mi gridò «Buona fortuna nell'impiccagione!» e partì e lampeggiò ancora con i fari per salutare e prima di uscire dal boschetto suonò. E io camminavo per un sentiero del bosco e poi mi sedetti su una panchina e dopo aver di nuovo ripensato a tutto, dopo aver soprattutto concluso che il maestro non mi voleva più bene, mi dissi che non era più possibile stare al mondo, se fosse stata una ragazza chiodo scaccia chiodo, ma per il maestro che aveva servito il re d'Inghilterra e che pensava che io fossi capace di rubare un cucchino che mancava, è vero, ma poteva averlo rubato qualcun altro, questo non mi entrava in testa. E sentii fra le dita quella corda, e poi c'era un tal buio che dovevo camminare tastoni e tastavo gli alberi, ma erano solo alberelli piccoli. Poi uscii e dal cielo vidi che camminavo fra ancor più piccoli abeti, per una specie di piccolo vivaio, e poi mi ritrovai in un boschetto, ma qui c'erano solo betulle. Betulle grandi, avrei dovuto avere una scala per salire su un ramo. E poi capii che non era una faccenda semplice. E quando poi mi ritrovai in un vero boschetto con rami abbastanza bassi, erano pini, però i vecchi rami sporgevano tanto che ora avrei dovuto strisciare a quattro zampe. E strisciavo così a quattro zampe e quella decorazione mi tintinnava sul mento e sul viso, e tanto più mi ricordava il cucchiaino d'oro che si era perduto nell'albergo, e poi mi fermai su quelle quattro zampe e di nuovo rimuginai tutto quanto, e di nuovo giunsi a quel doloroso punto nel cervello che non riuscivo a superare, il fatto che il signor Scribanek non mi volesse più bene. Che non mi avrebbe più istruito, che non avremmo più scommesso su quel che un cliente avrebbe preso e non preso, o dovuto prendere, di quale nazionalità fosse il cliente appena entrato, e così mi misi a lamentarmi, come quel primo consigliere Conopace che quando aveva mangiato alcuni bocconi di quello splendido cammello ripieno, e decisi di impiccarmi. E mentre mi ginocchiavo qualcosa mi sfiorò la testa, per un momento restai così, in ginocchio, poi alzai le mani e toccai delle scarpe, le punte di due scarpe. Toccai un po' più su e sentii due caviglie e delle calze e dei polpacci. Freddi. Mi alzai. E annusai fino alla vita di un impiccato, e presi un tale spavento che mi misi a correre, e mi facevo strada fra vecchi rami pungenti, mi graffiavo la faccia e i lobi delle orecchie, ma riuscii a sbucare sul sentiero e lì crollai a terra e svenni, con la corda in mano. E poi mi svegliarono le lampade e delle voci umane, e quando aprì gli occhi vidi, non vidi ma seppi, che ero in braccio al maître Scrivanek, che mi carezzava. Io continuavo a ripetere, lì, lì, e così lì trovarono quell'impiccato che mi aveva salvato la vita, perché io mi sarei impiccato lì accanto a lui, oppure insieme a lui, e il maître mi carezzava i capelli, e mi asciugava il sangue. E io piangevo e gridavo col cucchiaino d'oro, e il maître mi sussurrò, non aver paura, si è trovato. E io dico, dove? E lui disse a bassa voce, l'acqua non scendeva dall'acquaio, così l'hanno smontato e quel cucchiaino era finito nel sifone. Perdonami, andrà nuovamente tutto bene come prima. Dico, ma come avete fatto a sapere dove ero? E il maître disse che era stato il tassista che ci aveva ripensato ed era tornato all'albergo e domandato ai camerieri chi di loro poteva volersi impiccare. E proprio in quel momento l'operaio aveva portato il cucchiaino, e il maître, colui che aveva servito il re d'Inghilterra, aveva immediatamente saputo che ero io, e così erano venuti a cercarmi, e così accadde che nell'hotel Parigi mi ritrovai di nuovo come un pesce nell'acqua, e il maître Scrivanek mi affidò addirittura le chiavi delle cantine, dei liquori e dei cognac, come se volesse cancellare tutto ciò che era successo con quel cucchiaino d'oro, ma il capo non mi perdonò mai di aver ricevuto quella decorazione, quella fascia sul petto, e mi guardava come se non ci fossi, sebbene io guadagnassi tanti di quei soldi che ormai ci ricoprivo l'intero pavimento. Ogni 3 mesi portavo l'intero pavimento ricoperto di biglietti da 100 in banca, perché avevo deciso che sarei diventato milionario, che avrei raggiunto tutti gli altri, che dopo avrei affittato o comprato un alberghetto, una gabbiolina da qualche parte, che mi sarei sposato, che avrei sposato una fidanzata ricca, e che mettendo insieme i soldi con mia moglie sarei stato stimato come gli altri hotelier, che anche se non mi avrebbero apprezzato come essere umano, avrebbero dovuto apprezzarmi come milionario, proprietario di alberghi e di beni, che quindi sarebbero stati condannati a tener conto di me. Nuovamente una cosa spiacevole. Andai per la terza volta alla visita di leva. Anche la terza volta non diventai soldato perché non avevo la misura, anche se tentai di corrompere i funzionari militari, non mi arruolarono ugualmente. E in albergo tutti ridevano, e lo stesso signor Brandeis mi fece delle domande, e così mi rese nuovamente ridicolo, sicché ero piccolo piccolo e sapevo che sarei stato piccolo fino alla morte, perché non sarei cresciuto, e semmai, solo così come facevo, che portavo le suole doppie e tenevo la testa eretta sempre come se avessi un piccolo colletto di frac. Questa era la mia unica speranza, che mi si allungasse il collo se avessi sempre portato un colletto alto di caucciù. E così accadde anche che cominciai a frequentare lezioni di tedesco, a vedere film tedeschi, leggevo giornali tedeschi e neppure mi meravigliavo che per le vie di Praga camminavano studenti con calze bianche e camicie verdi, e che alla fine in albergo ero quasi solo io l'unico che serviva i clienti tedeschi. Tutti i nostri camerieri si comportavano con i clienti tedeschi come se non sapessero il tedesco, anche lo stesso maître Scrivanek che con i tedeschi parlava solo inglese o francese o ceco. E così una volta in un cinematografo pestai la scarpina a una donna, e lei disse qualcosa in tedesco, e io mi scusai con lei in tedesco, e così accompagnai quella donna, la quale era vestita bene, e per mostrarle gratitudine perché parlava in tedesco con me, le dissi che era terribile quel che facevano i ciechi con i poveri studenti tedeschi, che avevo visto con i miei occhi come una Rodney Trida gli avevano strappato dai piedi le calze bianche, a 2 studenti tedeschi avevano strappato le camicie marroni, e lei mi disse che capivo tutto al modo giusto, che Praga era un antico territorio del Reich, e che il diritto di percorrerlo e di abbigliarsi secondo le proprie consuetudini era un diritto inalienabile, e che il mondo intero era indifferente a questo, ma che sarebbe venuta l'ora, e sarebbe venuto anche il suo giorno, in cui il Führer non avrebbe lasciato le cose così, e sarebbe venuto a liberare tutti i tedeschi da Sumava fino ai Carpazi, e ora mi accorsi, mentre diceva questo, che la guardavo, occhi negli occhi, che non ero costretto a guardarla come le altre donne. Io avevo sempre avuto la sfortuna che tutte le donne che avevo incrociato in vita mia, tutte erano più alte di me, e anzi, fra le donne, quasi delle gigantesse. Sempre quando stavamo di fronte gli vedevo il collo o il seno, e vidi che lei era piccolina, proprio come me, che le luccicavano gli occhi verdi, e che era spruzzata di lentiggini, proprio come me. ma quelle lentiggini marroncine sul suo volto insieme agli occhi verdi creavano un'armonia così bella che vidi come a un tratto era bella, ma mi accorsi inoltre che anche lei guardava me allo stesso modo. Io portavo di nuovo quella bella cravatta bianca coi puntini azzurri, ma lei mi guardava i capelli chiari come la paglia, e poi più giù gli occhi, come di vitello, occhi azzurri. Lei poi mi disse che i tedeschi del Reich desideravano tanto il sangue slavo, desideravano tanto quelle pianure e il temperamento slavo che già da 1000 anni tentano con le buone o le cattive di sposare quel sangue, e mi confidò che un mucchio di nobili prussiani aveva sangue slavo nel proprio, e che quel sangue rendeva quei nobili agli occhi del resto della nobiltà più preziosi degli altri, e io fui d'accordo. E mi meravigliavo per come mi capiva, perché non erano le domande di un cliente, che cosa prende per pranzo o cena, ma io dovevo conversare con quella signorina alla quale avevo pestato la scarpina nera e così parlavo un po' di tedesco e molto cieco. Ma avevo sempre l'impressione di parlare tedesco in quello spirito tedesco. Così venni a sapere da quella signorina che si chiamava Lisa, che era di Keb, che faceva lì la maestra di ginnastica, che era campionessa distrettuale di nuoto, e aprì la giacchettina e sul petto aveva un distintivo, 4F in cerchio, come un quadrifoglio, e mi sorrise e continuava a guardarmi i capelli tanto che ero un po' turbato, ma lei mi ridette fiducia e disse che avevo i più bei capelli chiari al mondo, tanto che barcollai un po'. E io a mia volta le dissi che facevo il maître all'Hotel Parigi. Glielo dissi e mi aspettavo il peggio, ma lei mi pose una mano sulla manica e quando mi toccò gli occhi le brillarono a tal punto che sussultai. Lei però mi disse che suo padre aveva un ristorante a Keb, alla città di Amsterdam. E così ci mettemmo d'accordo e andammo al cinematografo a vedere Amore a tempo di 3/4. E lei venne con un cappellino tirolese, e come mi piaceva fin da bambino, con una specie di camiciola verde, e in realtà una camiciola grigia col colletto verde, adorno di ramoscelli di quercia ricamati, e fuori cadeva la neve. Natale era vicino. Lei poi venne da me alcune volte all'Hotel Parigi, a pranzo o a cena, e di nuovo, come la prima volta che era venuta, il maître scrivano che la guardava, e poi guardava me, ed entrammo di nuovo nella stanzetta alla vecchia maniera, e io scoppiai a ridere, e dico, allora scommettiamo 20 corone su quel che prende la signorina, perché avevo visto che era venuta con quella camiciola, e oggi, anzi, anche con le calze bianche, e io tirai fuori una banconota da 20, e la posai sul tavolinetto di servizio, ma il maître scrivano che mi guardò, con fare estraneo, proprio come quando volevo brindare con lui la sera in cui avevo servito l'imperatore di Abissinia e si era perduto un cucchiaino d'oro. Io tenevo le dita su quella banconota e lui mi lasciò apposta a godere che tutto era a posto. Estrasse anche lui 20 corone, le depose lentamente, ma poi, come se i suoi soldi potessero sporcarsi con quelle mie 20 corone, infilò velocemente le sue nel portafogli, dette ancora uno sguardo alla signorina Lisa e fece un gesto con la mano. Ed allora non mi rivolse più la parola, e dopo il turno mi tolse le chiavi delle cantine e mi guardava come se non esistessi, come se non avesse mai servito il re d'Inghilterra, come se io non avessi mai servito l'imperatore di Abissinia. Ormai mi faceva lo stesso, perché vedevo e sapevo che tutti i ciechi erano ingiusti verso i tedeschi. In quel momento cominciai anche a vergognarmi di essere un membro del Sokol, in quanto il signor Scrivane, che era un grande Sokol, proprio come il signor Brandeis, tutti prevenuti contro i tedeschi, e soprattutto contro la signorina Lisa, che da me, unicamente da me, veniva. e che non potevo servire perché il suo tavolo era nella zona di un altro cameriere. Stavo attento a come la servivano malissimo. Le portavano la minestra fredda e il cameriere teneva un pollice dentro la minestra. E così accadde che colsi dietro la porta al cameriere che stava portando del vitello ripieno e sputò nel piatto. E io feci un salto per prendergli il piatto, ma il cameriere mi incollò il piatto in faccia e mi sputò poi in viso. Quando mi asciugai quel sugo gelatinoso dagli occhi, sputò ancora una volta perché lo vedessi quanto mi odiava. Ma quello fu come un segnale, e tutti dalla cucina accorsero dietro quella porta e tutti i camerieri si raccolsero e ciascuno mi sputò in faccia e mi sputarono addosso finché venne lo stesso signor Brandeis e come capo del suo col di Praga uno mi sputò addosso anche lui e disse che mi licenziava. E io, sputacchiato e sporco di sugo di vitello al forno, corsi in sala al tavolo della signorina Lisa e le indicai, con le due mani le indicai, che cosa mi avevano fatto a causa sua e soccole ai ciechi. E lei mi guardò e con un tovagliolo mi asciugò il viso e mi disse che dalla soldatesca cieca non ci si poteva e potrà aspettare nient'altro, e che per quel che avevo sofferto per lei mi voleva bene. Quando uscimmo, dopo che mi ero cambiato per accompagnarla, subito prima della porta delle polveri accorsero degli zotticoni ciechi e dettero a Lisa uno schiaffone tale che quel suo cappellino tirolese volò via fino ai binari del tram. E quando la difesi, gridando in cieco, «Ma che fate? Sareste dei ciechi! Pu!» uno di quella soldatesca mi dette uno spintone. Altri due afferrarono Lisa e la buttarono in terra, e due la tenevano per le braccia e uno le tirò sulla gonna. E da quei suoi polpacci e cosce abbronzate le tirarono giù brutalmente le calze bianche. E io gridavo mentre mi picchiavano, «Che fate, soldatesca cieca che siete?» Gridai tanto a lungo finché ci lasciarono andare. E le calze della signorina Lisa se le portarono via come uno scalpo bianco, un trofeo bianco. E noi attraverso un passaggio raggiungemmo la piazzetta. Elisa piangeva e sibilava: «Razza di accolita bolscevica, la pagherete, svergognare una maestra tedesca di Keb». E io mi sentivo un grand'uomo, lei si reggeva a me ed ero così indignato che cercai la tessera di membro del Soccol, ma non la trovai per strapparla. E lei a un tratto mi guardò, con gli occhi pieni di lacrime, e scoppiò di nuovo a piangere in strada e appoggiò una guancia sul mio viso e mi si strinse tutta, e io seppi che dovevo difenderla e proteggerla da tutti i ciechi che volevano far del male a questa piccola donna dei Sudeti, magari torcerle un capello, figlia del proprietario dell'hotel e ristorante alla città di Amsterdam a Keb, che era già stata requisita come territorio del Reich nell'autunno dell'anno precedente, e tutti i Sudeti erano passati dove erano tanti anni prima. Erano tornati al Reich, e ora qui nella Praga del Sokol ai poveri tedeschi succedono cose come quelle che avevo visto con i miei occhi. Il che confermava il perché erano stati requisiti i Sudeti e perché probabilmente anche Praga sarebbe dovuta finire allo stesso modo, visto che la vita e l'onore delle genti tedesche erano minacciati e calpestati. Poi accadde anche questo. Io non solo fui licenziato dall'Hotel Parigi, ma non mi presero da nessuna parte, neppure come aiuto. Ogni volta arrivava già il giorno dopo l'informazione che io ero un cieco con sentimenti filo tedeschi e in più un Sokol che s'era messo con una maestra di ginnastica tedesca. E così restai a lungo senza lavoro, finché finalmente arrivò l'esercito tedesco e occupò non soltanto Praga, ma tutto il paese. E qui la signorina Lisa mi sparì per 2 mesi, e dopo averle scritto invano, e non solo a lei ma anche a suo padre, il giorno dopo l'occupazione di Praga stavo facendo una passeggiata e a piazza della città vecchia vidi come l'esercito del Reich stava cucinando nelle marmite saporite minestre e le distribuiva alla cittadinanza nelle scodelle, e mentre guardo, chi non ti vede in un vestitino a righe col distintivo rosso sul petto e col mestolo in mano? Lisa! Thank you. Neppure le rivolsi la parola. Per un attimo guardai come versava la minestra e con un sorriso consegnava le scodelle, finché mi ripresi e mi misi anch'io in fila. E quando fu il mio turno mi porse la scodella di minestra calda e quando mi guardò non è che prese paura, ma fu tutta contenta. E così con grande orgoglio si mise in mostra per quel vestito militare di infermiera volontaria ausiliaria del fronte, o che uniforme era. E io le dissi che da allora non avevo trovato lavoro, da quando avevo preso le difese del suo onore là alla porta delle polveri, con le calze bianche. E lei si fece dare il cambio e subito mi prese sotto braccio, rideva e gioiva, e io avevo l'impressione, e lei pure, che in realtà era stato per quelle sue calze bianche e per come mi avevano sputato addosso in albergo, che l'esercito del Reich aveva occupato Praga. E così passeggiavamo per corso Naprikopec e i soldati in uniforme salutavano la signorina Lisa e io ogni volta facevo l'inchino e lì mi venne in mente, probabilmente anche a Lisa, svoltammo dalla porta delle polvere, oltrepassammo il posto dove era stata stesa sul marciapiede, le avevano tirato giù le calze bianche 3 mesi prima e come entrammo nell'hotel Parigi io feci per cercare un tavolino. Dappertutto erano seduti ufficiali tedeschi e io stavo in piedi con la signorina Lisa in uniforme da volontaria e i camerieri e il maître scrivane che erano pallidi e servivano in silenzio i clienti tedeschi e io mi sedetti vicino alla finestra e in tedesco ordinai un caffè latte viennese con un bicchierino di rum, come lo servivano prima al modo dell'hotel Sacher, Wiener Café mit Bespritzer Nazi. Fu una bella sensazione quando entrò anche il signor Brandeis inchinando, si fece un inchino particolarmente cortese anche a me, e di punto in bianco si mise a parlare con me, parlò di quella circostanza imbarazzante avvenuta quella volta e si scusò con me, ma io gli dissi che quelle scuse non le accoglievo, che si sarebbe visto. E mentre pagavo il conto al maître scrivane che gli dissi, vede, ci ho guadagnato un cavolo a servire re d'Inghilterra. E mi alzai e passai fra i tavoli, e gli ufficiali dell'esercito tedesco salutavano la signorina Lisa e anch'io mi inchinavo loro, come se quei saluti fossero rivolti anche a me. Quella notte la signorina Lisa mi portò da lei, prima andammo in un circolo militare, una casa marrone, brindammo con champagne all'occupazione di Praga, gli ufficiali brindavano con Lisa e anche con me, ogni volta lei spiegava che ero stato coraggioso e avevo difeso il suo onore, germanico. Gli ufficiali brindavano con Lisa e anche con me. Ogni volta lei spiegava che ero stato coraggioso e avevo difeso il suo onore germanico dalla soldatesca ceca. E io facevo inchini e ringraziavo dei saluti e dei bicchierini alzati, ma non sapevo e neppure potevo sapere che quei saluti appartenevano a Lisa e solo a Lisa, e che me mi guardavano appena, mi supportavano, mi rispettavano soltanto come appendice di Lisa, comandante delle volontarie militari, come appresi da come la chiamavano i brindisi. Io avevo una così bella sensazione che potevo partecipare a quella festa, che ero insieme a comandanti e colonnelli, che ero fra giovani con occhi ugualmente azzurri e capelli ugualmente biondi come li avevo io, che non sapevo del tutto bene il tedesco, ma che come un tedesco mi sentivo. Che come la principessa Rosa Spina avevo bisogno di incontrare la signorina Lisa, di pestarle la scarpina nera e di risvegliarmi, come nella fiaba. E così da quella festa andammo in un luogo dove non ero ancora stato. Lisa mi pregò di guardare il mio albero genealogico. Certamente là ci doveva essere da qualche parte un antenato germanico. Io le dissi soltanto che mio nonno sulla tomba aveva la scritta Johann Ditie, che era stagliere dei signori. Io di quello stagliere di cavalli mi ero sempre vergognato, ma Lisa, quando sentì questo, io crepi, in qualche modo, i suoi occhi, più che se fossi stato un conte cieco. Sembrava che con quel Ditie fossero caduti tutti i muri e le sottili pareti che ci dividevano. Restò in silenzio per tutta la strada, poi aprì una vecchia casa e salimmo le scale. A ogni piano mi baciava lungamente, mi carezzava i calzoni sul davanti e quando entrammo nella sua cameretta accese una lampada da tavolo ed era tutta umida, negli occhi e nelle labbra. Dei suoi occhi si vedeva il bianco, come un velo. Mi spinse su un canapè e mi baciò di nuovo lungamente. Mi toccava e mi contava con la lingua tutti i denti e si lamentava e gemeva come un portoncino cigolante aperto e chiuso dal vento. E poi non si poteva più fare nient'altro se non quello che aspettavo. Ma che non partiva da me come prima, bensì partiva da lei. aveva l'esigenza di avermi e mi permetteva qualsiasi cosa. Lentamente si svestì, guardava come mi svestivo anch'io. Pensavo che siccome era sotto le armi avrebbe avuto anche una specie di uniforme in forma di mutandino o di sottoveste che certamente anche le volontarie dell'ospedale da campo dovessero avere della biancheria di servizio. Ma lei aveva tutto quanto come quelle signorine che frequentavano l'Hotel Parigi per la visitazione dei signori borsisti, come le avevano anche le signorine dai Paradiso, e poi i nostri corpi nudi si incollarono. In qualche modo era tutto come in stato liquido, come se fossimo chiocciole, e ci incollavamo l'una all'altra soltanto col corpo umido uscito dalla conchiglia. Terribilmente Lisa sussultava e tremava, e io riconobbi per la prima volta che ero innamorato e riamato. Era una cosa completamente diversa da prima. Neppure mi pregò di fare attenzione, di stare attento, ma tutto era soltanto per essere così come era. I movimenti, la fusione e la via in salita, le illuminazioni e lo spruzzo della luce, della fame e dei lamenti trattenuti. Neppure dopo ebbe paura di me, nemmeno un attimo. Inarcava il ventre contro il mio viso, mi abbracciò forte con le gambe e il capo nel grembo, e non si vergognò neppure un attimo, ma al contrario, come se facesse parte di tutto questo, si sollevò e si lasciò sfregare e leccare con la lingua tanto a lungo finché si inarcò e mi fece assaggiare, e con la lingua e nella lingua mi fece vivere tutto ciò che accadeva dentro il suo corpo. Poi, mentre lei era già distesa con le braccia conserte e le gambe spalancate dove ondeggiava un ciuffo di peluzzi chiari pettinati all'insù a crocchia, i miei occhi si fermarono sul tavolo. E lì c'era un mazzo di tulipani di primavera e di giovani ramoscelli di betulla e alcuni di abete, come in un sogno, neppure forse nel ricordo, quello venne dopo. Dopo ricordai il motivo ricorrente, strappai i ramoscelli, li spezzettai e cosparsi il suo sesso con quei ramoscelli. Era bello. Quella sua pancia cosparsa torno torno di ramoscelli di abete mi guardava di sottecchi, e quando mi chinai e la baciai fra quei ramoscelli sentii gli aghi pungermi intorno alla bocca. Mi prese teneramente il capo con le mani e si sollevò e mi schiacciò il grembo sul viso con tanta violenza che guaii di dolore, e con alcune potenti scosse della pancia raggiunse una tale eccitazione che fece un grido penetrante e crollò su un fianco respirando con tanta violenza che pensai che stesse morendo o sarebbe morta. Ma non era né questo né quello. Si chinò solo su di me e spalancò tutte e 10 le dita e minacciò di strapparmi gli occhi e graffiarmi il viso e il corpo intero, tanto era riconoscente e contenta. E apriva di nuovo sopra di me quelle unghie e le richiudeva con uno spasimo, per poi crollare dopo un attimo nel pianto e da un pianto sommesso passare a un riso piccino. E io ero calmo e silenzioso. Afflosciato stavo, disteso, e vedevo come con le dita veloci strappava i resti di quei ramoscelli di abete, di quei rametti, come fanno i cacciatori quando sparano alla selvaggina, e vedevo come ricopriva la sua pancia. Il mio sesso flosciato, l'intero grembo, l'avevo pieno di ramoscelli, e poi lei mi sollevò e mi carezzava con le mani e mi baciava linguide, e lentamente mi tornava un'erezione, e a un tratto i ramoscelli si sollevarono, e da loro sbucò il mio pene, e lentamente cresceva e faceva cadere i ramoscelli, ma Lisa con la lingua metteva torno torno quei ramoscelli, per poi sollevare la testa e infilare il mio sesso intero nella bocca, fin dentro la gola. Volevo allontanarla, ma lei mi rovesciò. Mi scostò le mani e guardavo in alto, e questa volta lasciavo fare io a lei quel che lei voleva fare con me. Non mi sarei mai aspettato tanta furia nel suo comportamento. Quasi con violenza mi succhiò fino al midollo, con potenti colpi e movimenti della testa, senza neppure allontanare i ramoscelli che le laceravano a sangue le labbra. Forse i germani usano così. Avevo quasi paura di Lisa. Quando poi strisciò con la lingua sulla mia pancia, lasciandosi una scia di saliva come una chiocciola, mi baciò, e la sua bocca era piena di seme e di aghi di abete. E lei non lo considerava nulla di impuro, al contrario, il culmine, una parte della messa. Questo è il mio corpo, e questo è il mio sangue, e questa è la mia saliva, e questi sono i tuoi e i miei succhi, e questo ci ha uniti, e ci unisce, per sempre, come mi disse. Perché ce lo siamo scambiati anche col profumo dei succhi e dei peluzzi. Mi basta. Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.